Complimenti, caro Betty. Quello è il suo nuovo ufficio. Un uomo, i suoi sogni, il suo lavoro. L'ASI. Non si riesce più a distinguere gli esseri umani dagli animali. Un uomo, i suoi sogni, il suo lavoro. Depurati con brio. Stress, affaticamento, scarsa concentrazione. Sapete quanto è dannoso il vostro schermo? Usate BioShield, il sistema che annulla gli effetti nocivi delle radiazioni. Vita stressata? Intestino pigro? C'è Dulcolax. E dentro ogni confetto Dulcolax c'è una grande intelligenza. Tenetevi forte, stiamo scendendo nell'esofago. Sciolto il primo rivestimento. Siamo nello stomaco. Tutto ok. La lacatura gastroresistente di Dulcolax ha tenuto. Ritti alla meta. Finalmente siamo nell'intestino. È il momento di liberare il principio Kip. 3, 2, 1, via! Dulcolax, contro la stitichezza, missione compiuta. L'ho vista la pubblicità, eh? L'ho vista la pubblicità, eh? Tellino, tu ce l'hai la carta di credito, vero? Tu ce l'hai la carta di credito, vero? Hey,